Gazzetta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Una buona notizia c'è, chiaramente non riguarda la nostra nazionale. Parleremo anche di quello però, perché come già anticipato ieri in un servizio di GR24 e oggi sul Sole 24 Ore, c'è un aspetto anche economico. Abbiamo già fatto altre puntate in occasione dei mondiali di calcio o delle Olimpiadi per commentare il giro d'affari complessivo di quegli eventi. C'è una ricaduta economica importante sul settore sportivo italiano, che non se la passa benissimo, perché ci sono alcune discipline, 5 in particolare, che hanno bilanci pesantemente in rosso. Mi riferisco a discipline all'interno del CONI, ma il calcio sappiamo che portava anche soldi che poi si possono ridistribuire a discipline che hanno difficoltà a raccogliere soldi e comunque hanno i bilanci messi male. Perché lo dico? Perché calcolo è presto fatto, quello che perderemo tra sponsorizzazioni, diritti TV e premi FIFA vale circa sui 100 milioni di euro. Per la Russia 2018 il totale dei contributi economici ammonterà a 790 milioni di dollari, precedente a quella del 2014 organizzata dal Brasile. Questo vale però per i mondiali, che a questo punto noi guarderemo in TV ma non vi parteciperemo. Tra l'altro ricordo che in Brasile si toccò quota 576 milioni, di cui 100 milioni destinati alle assicurazioni per i giocatori, 70 ai club proprietari dei calciatori impegnati nella rassegna. La maggior parte di queste risorse, 400 milioni di dollari, sarà riservata alle 32 squadre che parteciperanno alla fase finale. Praticamente in Russia ciascuna delle 32 finaliste riceverà quindi quella che si chiama preparation fee da 1.500.000 dollari. Comunque le 16 eliminate intascheranno di 8 milioni di dollari ciascuna, e poi più vai avanti, ottavi, quarti, aumenta il contributo. Praticamente le due finaliste potrebbero accumulare 38 milioni di dollari per la vincitrice, 28 per la seconda classificata. Quindi anche arrivare solo ai quarti di finale garantirebbe un incasso minimo sui 18 milioni. Poi c'è un problema complessivo sul cosiddetto marchio Italia. Tra l'altro la Russia è, come sapete, un paese importantissimo per noi nell'interscambio commerciale, nonostante i dazi, perché lì ci sono interi gruppi che avrebbero utilizzato la nazionale per i mondiali per avere visibilità, classiche operazioni di marketing e pubblicitari, che non lo potranno più fare. Gli introiti commerciali della Federazione Italiana Gioco Calcio montano a 43 milioni su un fatturato totale di 174 milioni. Di questo parleremo, al di là delle valutazioni che uno può fare. Certo che c'è un tema anche manageriale, ma non voglio certo rubare spazio ai temi e altri programmi. Abbiamo avuto tutti convocati in un'edizione speciale di 2 ore proprio anche sul tema. Certo che analizzando quello che è successo, come potremmo analizzare una gestione aziendale, devono saltare tutti i vertici e chi li ha messi lì, fine, punto e basta. Dopodiché senza tanti tentennamenti, quando fallisci un obiettivo minimo devi andare a casa. Poi uno può iniziare, e tutto il resto e anche le reazioni che vediamo potrebbero entrare tranquillamente nella nostra classifica del venerdì, perché la classifica del venerdì ha come comune denominatore e fil rouge l'assenza delle volte del senso della vergogna e del senso anche così di quello che una volta si sarebbe chiamato pudore, vergogna, non lo so. E invece no, qui più che la vergogna poté la cadrega. Ma andiamo avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, nonché la diretta su Facebook. Gli altri temi che tratteremo, dicevo, c'è una buona notizia riguardo al PIL italiano che Oggi l'Istat nel diffondere il terzo trimestre più 0,5 vede un effetto del più 1,8% su base annua, quindi vuol dire un dato superiore anche alla revisione più ottimistica di 2 mesi fa, che collocava la nostra crescita all'1,5%. Praticamente la crescita acquisita, cioè quella che avremmo comunque nel 2017, anche se l'ultimo trimestre non dovessimo crescere, dovessimo fare zero, cosa a mio avviso altamente improbabile, è dell'1,5%. E quindi immaginando che anche l'ultimo trimestre non vada come ha fatto questo, più 0,5, faccio un po' di meno, l'1,8% è veramente raggiungibile. Però è arrivata una piccola doccia fredda dalla Commissione europea, perché il vicepresidente della Commissione, Jyri Katainen, ha detto: l'opinione dell'Unione Europea, la valutazione della vostra manovra arriverà la prossima settimana e non voglio anticiparla, ma il fatto è che tutti possono vedere dai numeri è che la situazione in Italia, inteso come conti pubblici, non migliora. C'è una deviazione dagli obiettivi di medio termine per quanto riguarda il saldo strutturale. La decisione comunque verrà presa a maggio, anche se la lettera arriverà appunto la settimana prossima. La Commissione Europea, da quello che si capisce, chiederà ulteriori chiarimenti ed impegni. Di questo ci occuperemo in apertura. Nel frattempo, oltre che dell'economia italiana e del danno economico della mancata qualificazione per i mondiali, ancora non ci credo, parleremo del tema banche, perché oggi ci sono state le prime audizioni sul caso Monte dei Paschi, dopo che la commissione bicamerale aveva iniziato a lavorare su Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Tra l'altro uno dei membri della commissione, mi riferisco a Renato Brunetta, ha detto che le audizioni del governatore della Banca d'Italia Visco e del presidente della Consob Vegas si terranno prima di Natale. E ancora lì c'è stata una posizione interessante. Il sostituto procuratore di Milano Stefano Civardi ha detto che la crisi del Monte dei Paschi di Siena non è da imputare alle operazioni sui derivati Alexandria e Santorini, ma è opposto, cioè la crisi, le operazioni sui derivati sono un effetto, non una causa della crisi bancaria, perché Monte dei Paschi aveva una quantità di obbligazioni del nostro debito pubblico doppia rispetto alla media delle altre banche. È chiaro che quando scoppia un problema sul nostro debito sovrano, ricorderete 2010-2011 con lo spread a 570, con Berlusconi che si dimette, Monte dei Paschi soffre più di altre banche. Poi ha detto: non è emersa mai un elemento probatorio della presunta stecca tangente pagata per l'operazione di acquisto di Anton Venter, lo dice appunto sia il sostituto procuratore di Milano Civardi che il suo collega sempre di Milano Giordano Baggio. I manager, però, ha aggiunto Baggio, alcuni manager del vecchio Monte dei Paschi di Siena avevano operato un imponente scudo di somme di denaro che è emerso in seguito a un sequestro da parte delle procure di Milano e di Siena a carico del gestore del broker di Enigma. Ne parleremo, perché nel frattempo è uscita anche una parte della lista dei 100 grandi debitori che hanno contribuito al crack della Popolare di Vicenza. Da questo punto di vista c'è l'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, insolvente per 59,3 milioni di euro. Poi ci sono anche giocatori di calcio: Sebastian Giovinco, Iachinta, Lorenzo Moruso, Matteo Guardalben, 23 milioni e mezzo. C'è anche la Tirrenia con una sofferenza di 16 milioni, la società Acquamarcia Immobiliare con 17 milioni, il consultore Romano Luca Parnasi con 16 milioni e mezzo, Sorgente Group, gruppo immobiliare che possiede anche il Flatiron, il grattacielo più famoso, uno dei più famosi di New York, che fa capo a Walter Mainetti, 26 milioni di sofferenze, Mariella Burani Fashion Group 7 milioni e via così. La commissione potrà esaminare anche la lista delle più gravi sofferenze della ex Popolare in mano a quel tempo a Zonin, che ammontavano a 1,2 miliardi di euro. Anche di questo parleremo. Non ho intenzione di parlare di calcio, voglio parlare chiaramente del danno economico che una gestione non manageriale del principale sport in Italia e dello sport più globale al mondo ha prodotto. Perché guardate che il problema non è solo dei tifosi, uno potrebbe anche ipotizzare un danno nei confronti di questa gestione. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo con le altre notizie in breve. E partiamo dalla borsa. A2A guadagna il 5,60%, Campari il 2,60%, Iux Net-a-Porter l'1,90%, Italgas 1,1%, Prysmian più 1%, Recordati più 0,80%, Mediolanum più 0,70%, Comunipolsai ed Enel, ma anche Terna e Atlantia. Il fronte opposto invece vede calare oggi soprattutto Saipem il 7,50%, di nuovo Leonardo Finmeccanica meno 4,60%, Telecom meno 2,80%, come Biperbanca e Banco BPM il 2,5%, perde Tenaris il 2,30%, Azimut l'1,80%, Ferrari l'1,57% e il calo di UbiBanca. Complessivamente invece l'indice a Milano e quindi FTSE MIB perde lo 0,60%, meno 0,40% il calo di Parigi, meno 0,20% di Francoforte e anche di New York. Invariata Londra, euro su dollaro a 1,1759, quindi in leggero rafforzamento sul dollaro. Sì, ho dimenticato di dire che oltre che della cronaca delle audizioni nella commissione bicamerale parleremo anche della cassa di risparmio di Genova, che oggi è in difficoltà in borsa. Non è, anche qui c'è un tema di aumento di capitale, però insomma cercheremo di tenere assieme in un unico approfondimento tutto il tema bancario. Meno 9,93% in questo momento la cassa di risparmio di Genova. Altre notizie in breve. Venezuela, ve l'hanno raccontato anche i nostri GR24, c'è questa specie di default, di fallimento selettivo, ossia non è stato rimborsato un'obbligazione da 200 milioni di dollari, la cifra chiaramente è una cifra abbastanza modesta, e quindi Standard & Poor's ha dichiarato Venezuela in default, in fallimento selettivo, ha preso la decisione Standard & Poor's dopo una pausa di 30 giorni, ha abbassato il voto del Venezuela a 2 livelli, AD, e tagliato il rating a lungo termine a SD, default, selective default. Okay. Però l'incontro convocato dal governo con i creditori privati si è chiuso a Caracas dopo soli 30 minuti, praticamente il tempo di dirsi ciao ciao e arrivederci, arrivederci. Infatti è un nulla di fatto quel tentativo trovare una soluzione prima del default selettivo. Invece, venendo all'economia europea, la Gran Bretagna vede un'inflazione invariata al 3% nel mese di ottobre. E oggi c'è stato l'incontro dei quattro grandi governatori delle banche centrali mondiali ed è arrivata una sonora strapazzata. Lo voglio far ascoltare perché insomma è anche un po' di colore. Una sonora strapazzata da parte di Mario Draghi, di cui tutti voi che ascoltate questo programma sapete quanto io sono non fan, l'abbiamo criticato per la vicenda che riguarda in realtà più che lui l'ANMI, e mi riferisco all'addendum, alle nuove regole che si vorrebbero mettere dal 1 gennaio sulle nuove sofferenze bancarie, una follia diciamo recessiva per gli effetti che potrebbe avere sull'economia italiana e non solo, anche spagnola e francese. Ma Draghi oggi se l'è presa con i sottoscritti, cioè con i giornalisti, e ha detto, mi hanno fatto una domanda su come la Banca Centrale Europea riesca a gestire le critiche che continuano ad arrivare dalla stampa tedesca sulla politica monetaria di Draghi, con i tassi troppo bassi che i tedeschi odiano perché chiaramente hanno problemi sui fondi pensione, i rendimenti dei bund sono in negativo da un bel po', e gli è stato chiesto come reagisce lei e come gestisce le critiche tedesche da un lato e le critiche della stampa italiana sulla NUI, sulla nuova regolamentazione delle banche. Sentite la risposta di Draghi. We speak, we use English. Noi, per comunicare, utilizziamo la lingua inglese. In vari paesi, alcuni in particolare, certi giornali sono protetti dallo scrutinio internazionale perché usano la propria lingua nazionale e mandano costantemente da anni, anni e anni, lo stesso messaggio, a prescindere da quale sia la realtà. In questo modo i lettori, non avendo accesso ad altri strumenti di informazione, credono che la realtà sia di un colore quando in verità è di un altro. Non c'è nulla che possiamo fare se non continuare a mandare il messaggio che crediamo sia giusto, riflettere la realtà e rimanere trasparenti usando tutti i canali possibili. In fondo si tratta solo di una minoranza che ha voluto proteggersi dal giudizio internazionale. Dopo la critica che ci ha fatto, insomma, è ovvio che devo ribadire quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, ma dire anche, insomma, mi sembra una posizione un po' strana, caro Presidente Draghi. Io capisco il nervosismo anche con la stampa italiana, perché insomma nelle vicende bancarie più di uno ha fatto notare che era lui governatore della Banca d'Italia ai tempi della Vicenza, insomma, e abbiamo letto anche di un Draghi che si è sentito attaccato da alcuni partiti italiani. Però massimo rispetto, dire che siccome non parliamo inglese, o meglio non scriviamo in inglese, ma insomma la stampa tedesca, la stampa italiana scriverà in tedesco e in italiano, usano lo scarso accesso dei lettori della lingua inglese per sottrarsi allo scrutinio internazionale, insomma vuol dire che sostanzialmente noi possiamo dire le balle che vogliamo noi tedeschi, perché tanto i tedeschi e gli italiani conoscono poco l'inglese e possono confrontare poco quello che diciamo. Ma io gliela posso fare anche in inglese la critica, se vuole, che però insomma sull'operazione che la NUI della Banca Centrale Europea vuole fare sugli NPL, le sofferenze bancarie, no? It's foolish, va bene Draghi? È una pazzia? Nel momento in cui stiamo risolvendo il problema delle sofferenze lentamente, mettere regole ancora più stringenti che andranno a chiudere i rubinetti del credito ulteriormente delle banche alle piccole e medie imprese italiane? It's foolish. Così tutti lo capiscono, possono confrontare, andare a leggere e vedere cosa dicono gli altri. Allora, poi parliamo della Cassa di Premio di Genova. Invece una cosa interessante, la pubblica oggi in italiano, ma immagino ci sia la traduzione anche in inglese, Mediobanca, perché il centro studio di Mediobanca fa notare come in 5 anni, tra il 2012 e il 2016, i giganti del software del web hanno eluso 46 miliardi di euro. Che diventano 69 se si aggiunge Apple, che genera la maggior parte del suo fatturato nel hardware. Tra l'altro il risparmio fiscale, cioè mancati soldi, avviene, che poi sono soldi che servono per il welfare dei vari paesi, poi che uno li sappia utilizzare bene o male, questo è un problema del paese. Ma tu vieni qua, vendi a questo paese e come tutte le società in questo paese, in Germania, in Francia, lasci i soldi laddove fatturi, perché chi ti compra i tuoi prodotti è la stessa persona che poi uno Stato deve garantire il welfare, la polizia, la sanità pubblica, l'istruzione e quant'altro. Tu vieni, fatturi qui e paghi le tasse in Lussemburgo? Dai. Lussemburgo, Olanda e Irlanda. Infatti da Irlanda, Olanda e Lussemburgo, incluso il presidente Juncker, che per anni è stato primo ministro lussemburghese, c'è un silenzio assordante sul tema della web tax, perché perderebbero clienti. Pensate che la stessa Mediobanca fa notare come Facebook ha un tax rate, un indice di prelievo fiscale dell'1% sulle attività nei paesi al di fuori degli Stati Uniti. Allora, invece, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Milano, questa mattina al MUDEC, lo dico perché siamo diretti interessati, il MUDEC è il Museo delle culture, che è gestito dal gruppo Sole 24 Ore. Poi si è recato al Turing, prima anche al San Raffaele, insomma si è, al campus dell'Università Humanitas di Rozzano, scusatemi, nel milanese. Perché lo dico? Perché chiaramente è stato anche il momento per parlare dell'EMA, l'agenzia del farmaco europeo, che deve trasferirsi da Londra, e speriamo la vinca Milano. A meno una cosa riusciamo a farla, non dico a vincerla, abbiamo perso la possibilità di giocare i mondiali, almeno riusciamo a beccare sta EMA. L'alternativa è Bratislava. Il presidente Mattarella ha detto: auspico un successo pieno, sarebbe un ulteriore passo nel protagonismo di Milano in Europa. È stato un impegno comune e convergente per quanto riguarda l'obiettivo dell'EMA a Milano. Milano ha già ottenuto un successo con il riconoscimento di idoneità di alto livello. Noi confidiamo e speriamo che il successo sia pieno, ma questa vicenda, questo fronte, questo impegno ha manifestato la possibilità di convergenza, di impegno costante e comune di governo, regione, comune, per raggiungere un traguardo che consentirebbe a questa città un ulteriore passo avanti nel protagonismo in tutta Europa. Vedo che come sempre vi scaldate sul colore, su Draghi. No, allora, seriamente, ritengo che quella di Draghi sia una posizione un po' bizzarra, perché dire che siccome i lettori tedeschi e italiani capiscono poco l'inglese e non riescono a fare confronto con quello che dice con quello che viene detto realmente nei comunicati della BCE, con quello che viene... Guardate, però direi modestamente, Mario Draghi, che tutti gli articoli del Financial Times vengono tradotti dalle agenzie, li citiamo anche noi il giorno dopo. Insomma, sul Sole 24 Ore chi scrive i pezzi in italiano conosce molto bene l'inglese, dal bravissimo Alessandro Melli in poi, per cui insomma, diciamo che uno può criticare la NUI anche capendo esattamente quello che vuol fare la NUI, e i tedeschi hanno il diritto di criticare i tassi bassi perché capiscono benissimo che cosa portano i tassi bassi, che uno sia d'accordo o no. Dai. Pum, pum. Allora, Mattarella, dicevo che come avete sentito si auspica un successo pieno per quanto riguarda l'obiettivo di avere l'agenzia del farmaco a Milano. Anche il sindaco Sala ha detto: incrociamo le dita, è stato fatto un gran lavoro, però se non ci riusciamo, chi è rimasto in panchina, qui la metafora calcistica si imponeva, chi è rimasto in panchina non critichi, sono d'accordo, solo chi fa sbaglia o fallisce, chi non fa né sbaglia né fallisce. Sala: incrociamo, facciamo un bel incrocio di vita collettivo in attesa di lunedì. Vorrei solo dire che al di là dell'incrocio di dita, noi conosciamo la legge del duro lavoro che ci ha portato a elaborare questo dossier e a gestire questa candidatura. Sono certo che se vinceremo, nessuno di noi farà gara a prendersi il merito per aver vinto. Spero altrettanto che se non ci riusciremo, non ci sarà qualcuno che è rimasto in panchina e criticherà il lavoro fatto, perché è stato fatto un grande lavoro. Ancora il presidente di Humanitas, Gianfelice Rocca, ex presidente di Asso Lombarda e presidente del gruppo Techint, ha ricordato come la sanità lombarda rappresenti comunque un esempio virtuoso per tutto il paese. Io aggiungo a questo anche il fatto che Milano e la Lombardia sono quartier generale di molte case farmaceutiche, alcune italiane, per fortuna ne abbiamo anche italiane, e altre anche le grandi multinazionali. Quindi io non so quante case farmaceutiche multinazionali abbiano sede a Bratislava, se vogliamo parlare di Bratislava. Se invece si scrive Bratislava e si legge Vienna e Berlino, questo è un altro discorso. Però sentiamo Rocca sulla sanità lombarda. Questo sarebbe, anzi è l'Italia possibile, in grado di produrre risultati straordinari. La spesa sanitaria lombarda è contenuta al 5,3% del PIL, quella italiana si attesta sul 6,7%, rispetto all'8,7% la Francia e al 9,5% la Germania. E poi il settore di quelle che in inglese si chiamano life sciences, quindi tutte le scienze che si occupano della la scienza della vita, vuol dire la ricerca, poi applicata anche all'allungamento dell'età. Non penso, so già che la battuta sia così, l'Istat ci porta l'età della pensione più avanti. No, parliamo di una cosa seria. Su questo il ministro Carlo Calenda, sempre intervenendo all'inaugurazione del campus dell'Università Humanitas di Rozzano, alla presenza del Presidente della Repubblica. Ecco perché io penso che accanto a quello che abbiamo fatto sulla manifattura, che incrocia per certi versi tecnologicamente life science, e quello che abbiamo fatto sulla strategia energetica nazionale, dobbiamo mettere un pilastro dedicato alle scienze della vita, ed è un pilastro, insieme a un pilastro ancora più forte sulla cultura. Vedo che Draghi entusiasma gli ascoltatori. Lema, dunque, rispondo a alcuni messaggi al 349-238-6666. La decisione arriverà lunedì e stiamo già predisponendo la D24, anche una copertura per la cosa. E un altro mi scrive: Barisoni, semplicemente Draghi ti ha dato del deficiente e ha ragione. Vabbè, però posso dire che è meglio farsi dare del deficiente da Draghi che farselo dare da Barisoni? Che glielo stavo per dare. Allora, ieri Sole 24 Ore ha anticipato una cosa che sta scuotendo e preoccupando molto sia i sindaci, ma non solo. Mi riferisco alla Tari. Abbiamo raccontato di casi limite come quello romano, ma anche al di là della città di Roma, dove ci sono le famose aliquote fantasma, categoria dello spirito a questo punto. Il caso riguarda tante altre città e anche città e capoluoghi grossi. Oggi a Due di Denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza è intervenuto Antonio De Caro, che è sindaco di Bari, ma soprattutto è intervenuto come presidente dell'ANCI, dei comuni italiani. De Caro ha ribadito che i comuni sono tenuti a rimborsare i cittadini quando hanno commesso errori nella Tari. Il timore che ho io, ma è solo un timore, e che i comuni che devono rimborsare poi vadano ad aumentare la Tari per pareggiare i conti. Tu devi a me 2 euro e aumenti complessivamente il carico della Tari, dei soldi che devi ai vari cittadini perché ti sei sbagliato. Baretta, il sottosegretario dell'economia, ha detto: non è logico, sarebbe sbagliato se i comuni aumentassero la Tari per compensare i rimborsi laddove ci sono stati errori di calcolo sulla quota variabile della tassa sui rifiuti. È vero che non sarebbe logico, proprio per questo che io temo che possa avvenire. Comunque, il presidente dell'ANCI De Caro: c'è un regolamento tipo che era stato fatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, redatto e distribuito a tutti i comuni, che non era chiaro. Poi aggiungo che tutti i regolamenti di tutti gli 8.000 comuni d'Italia annualmente vengono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha mai detto nulla sui regolamenti. Mai nessun rilievo è arrivato da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, quindi ci sono amministrazioni comunali che hanno approvato, diciamo, inavvertitamente un regolamento applicando la parte variabile in maniera non corretta. Sicuramente non lo hanno fatto con dolo, perché i soldi in più che sono arrivati non sono soldi che servono a finanziare attività diverse, magari attività legate al comune, ma sono comunque soldi che sono stati utilizzati e dovevano essere utilizzati esclusivamente per il costo del servizio. La Tari copre integralmente il costo del servizio dei rifiuti. Il costo complessivo viene valutato e la Tari deve coprire integralmente quel costo. Credo che i comuni abbiano la possibilità in automatico di verificare dove la tassa è stata applicata in maniera errata e poter restituire direttamente ai cittadini quel surplus di tasse che hanno pagato. Credo sia un diritto dei cittadini, non credo nemmeno debbano fare una contestazione. Allora, caro presidente dell'ANCI De Caro, nessuno pensa che i comuni l'abbiano fatto con dolo, si sono sbagliati e vabbè, perfetto. Io però, se fossi un cittadino di quei comuni, non lo vorrei prendere nel dolo, perché non è che aumenti complessivamente la Tari perché devi risarcire giustamente alcuni tuoi cittadini che l'hanno pagata troppo perché tu ti sei sbagliato. Non l'avrei fatta con dolo, però facciamo una bella cosa: tu non ci hai messo il dolo, io non ci voglio mettere il mio dolo, siamo tutti contenti, rimborsate i residenti, a posto così, vedremo, vi terremo d'occhio, meteo, pubblicità e poi parliamo del PIL italiano, la buona notizia di oggi. Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. As I said, we will make decisions or adopt decisions next week. So, but fact is, like everybody can see from the numbers, that the situation in Italy is not improving. And the only thing what I can say on my behalf is that that all the Italians should know what is the actual economic situation, what are the challenges ahead of us all. This is a matter of... welfare society, future of welfare society in Italy and the healthiness of the Italian economy, but you will hear more on this issue next week. Allora, abbiamo mandato in onda come vorrebbe Draghi, non ho ben capito, in lingua originale l'intervento del commissario europeo Katainen, che ha detto: attenzione, gli italiani dovrebbero sapere come stanno le cose da loro, la vera situazione economica, c'è una deviazione degli obiettivi di medio termine per quanto riguarda il saldo strutturale, tutti possono vedere dai numeri che la situazione in Italia per quello che riguarda i conti pubblici non migliora. Adesso Draghi sarà contento, l'abbiamo fatto sentire in inglese, io poi l'ho tradotto, se non va bene la traduzione. Allora, dottor Andrea Goldstein, managing director di Nomisma, nonché editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a lei. Allora, qualcuno mi dice: lei non ha neanche capito quello che ha detto Draghi. Vabbè, non, Draghi ha detto che siccome i lettori tedeschi e italiani leggono poco in inglese, non hanno confronto rispetto alle balle che dicono tendenziosi i giornalisti tedeschi sulle critiche alla BCE per i tassi di interesse bassi e sulle critiche che arrivano dall'Italia per la decisione della NUI, che lavora per Draghi, mettiamola così, di avere regole più stringenti sulle sofferenze bancarie. Decisione che ritengo una follia, l'ho detto anche in inglese, è foolish la NUI. Allora, Goldstein, commentiamo il dato sul PIL e poi la critica che più mi arriva dai messaggi sul PIL in miglioramento è rivisto in ulteriore miglioramento, più 1,8% la stima sulla fine d'anno contro l'1,5%, siamo partiti a gennaio da un 1% stimato, lo dico perché la crescita acquisita nei primi 9 mesi è già dell'1,5%, quindi male che vada, facesse 0 il quarto trimestre, faremmo 1,5%. Siccome è molto probabile che il quarto trimestre qualcosa di PIL faccia, arriveremo più o meno all'1,8%. Poi la critica che arriva è: ma dov'è sta ripresa? Qua non si vede. Intanto commentiamo la revisione di oggi dell'Istat e poi dopo il traffico l'altra risposta. Prego, Goldstein. Beh, i risultati segnalano un miglioramento che si vede, perché chiaramente si vede, lo vediamo come cittadini, lo vediamo come imprese, come investitori. Quindi è un risultato positivo, perché comunque l'economia globale sta andando meglio e perché i mercati finanziari, che dicono alcuni gufi in questo caso, direi che l'espressione è giusta, vedono l'Italia come un paese più serio rispetto a qualche anno fa, quindi sono dei dati seri, sono dei dati solidi, sono dei dati concreti. Anche il miglioramento del rating dell'Italia da parte di Standard & Poor's è un dato serio e concreto, dove non si vedono, ma onestamente se uno prende un treno, se uno va in giro, se uno entra in un negozio, ci si rende conto che stiamo vivendo una fase migliore rispetto al passato, anche perché la gente ha più voglia di spendere, diciamo i dati sulle redditi disponibili delle famiglie, anche i dati sulle famiglie che riescono a risparmiare puntano tutti nella stessa direzione. Ecco, poi c'è un elemento invece che affronteremo dopo il traffico. Hanno ragione alcuni ascoltatori, non quelli polemici, non quello che mi dice che io non capisco né l'inglese né la matematica, ho capito, vabbè. fate una ragione. No, c'è un elemento concreto dove secondo me hanno ragione alcuni ascoltatori. Questa ripresa come dato aggregato è innegabile. Lei ricordava la ripresa del PIL, ma anche degli investimenti, del risparmio e quant'altro. Il problema è che è mal distribuita, se posso usare questo termine, cioè premia molto più alcune imprese, il 20% stimato che in questi anni ha compiuto la metamorfosi, si è internazionalizzato, esporta tra l'80 e il 90%, ha rivisto la rete commerciale e quant'altro, e premia quasi niente la parte finale del 20% e anche la parte un po' in mezzo, cioè chi lavora molto sui consumi interni. Forse per questo Goldstein, che c'è più difficoltà rispetto a altre volte nel raccontare questa ripresa, non ancora sufficiente, per carità, perché è molto forte per alcuni e molto molto debole per altri. Vorrei capire se questa potrebbe essere una chiave di interpretazione rispetto a chi mi scrive, ma io qui non vedo nulla, vedo tutto che va come prima, se non peggio. Dopo il traffico però, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Anything for you. Allora, Goldstein. Oggettivamente, insomma, è 18 anni che conduco questo programma, per carità, le critiche le abbiamo sempre viste. Questa volta a me sembra che questa ripresa ancora non sufficiente, perché abbiamo raccontato in tutti i modi possibili che siamo sotto ancora di un 10% come produzione industriale, che dovremmo arrivare al 2022 se va bene. Però anche a me capita, sarà che io lavoro spesso a Milano, anzi risiedo a Milano, quindi lavoro quasi sempre a Milano e mi muovo spesso nelle parti produttive, nel centro-nord. Anche noi, io parlavo ieri con un tassista, non mi dite che i tassisti sono pro-governo adesso, diceva, stiamo lavorando un po' di più a Milano e in altre città rispetto al passato. Non è che la qualità di questa ripresa non riesca a essere fotografata dal dato aggregato, cioè è talmente diseguale dentro che poi dire più 1,8 fa arrabbiare molti che vedono niente, vedono più 0,1. Indubbiamente la disuguaglianza è aumentata negli ultimi 20 anni, lo sappiamo, in causa della globalizzazione, l'arrivo della Cina sui mercati internazionali, il cambiamento tecnologico, la finanziarizzazione dell'economia. E questo fa sì che alcuni siano riusciti a cavalcare delle onde lunghe, appunto quelle del cambiamento tecnologico, dell'apertura dei mercati emergenti in particolare, altri no. Questo lo vediamo in questo momento, in questo frangente, in maniera particolarmente acuta, perché soprattutto vediamo chi ha sofferto di meno durante la crisi, grazie agli sforzi, non certo ad altri motivi, che riesce più rapidamente ad uscirne, e chi ha sofferto di più invece rimane indietro. Ora, detto questo, un dato che è molto importante è che in Italia la partecipazione al mercato del lavoro è aumentata negli ultimi anni, il numero di persone che lavorano è aumentato, siamo tornati per la prima volta da una decina d'anni a 23 milioni di occupati, su una popolazione che è leggermente diminuita, quindi ci sono dei dati abbastanza incontrovertibili del fatto che questa è una ripresa che si sta affermando, anche se non abbiamo recuperato i livelli necessari e soprattutto anche se la produttività rimane molto langue molto e continua ad essere molto bassa, e questo è l'elemento principale per cui le imprese non investono e la disoccupazione non aumenta, non diminuisce molto più rapidamente di quanto sarebbe auspicabile. Quindi ci sono sicuramente gli ascoltatori, come i lettori dei giornali e chi frequenta i social media, che si lamentano, hanno ragione da un certo punto di vista. L'importante è guardare la realtà nella sua complessità, soprattutto perché il rischio vero è pensare che ci siano problemi che sono dovuti a qualche strana teoria del complotto e che quindi basterebbe risolverli con qualche bacchetta magica per tornare all'Eden. L'abbiamo già visto. Dunque mi scrive un ascoltatore: visto che lei è veronese, vado a vedere la Melegatti e alla Ferroli. Allora, sono due casi molto diversi. La Melegatti è un problema di assetto societario, di baruffe chiazzotte tra i proprietari. Ferroli, sì, proprio ieri parlavo con uno dei massimi esponenti del gruppo Veronesi, che vuol dire AIA, Mangimi, Arena, AIA, ha detto che faranno un anno, adesso non vorrei, insomma, non mi sembra, faranno un anno bellissimo, grazie all'export e un po' di ripresa dei consumi interni. Quindi vede che anche chi mi scrive dipende con chi parlo. Infatti non sto dicendo che la realtà sia tutta bella, stiamo dicendo che il dato aggregato dell'Istat, il PIL più 1,8%, che non lo vedevamo da non mi ricordo neanche quando, forse dal pre-crisi, poi dentro può essere molto disomogeneo. Le chiedo ancora qualche minuto di pazienza a Goldstein, perché vorrei capire dopo invece che cosa sta mancando sempre a livello aggregato all'appello, cioè va bene l'export, stanno tornando anche i consumi interni, è la crescita tendenziale più alta da 6 anni, adesso ho ritrovato il dato, e tra l'altro è 13 trimestri consecutivi che il PIL ha il segno più, il che non vuol dire che potrà bastare. Che cosa sta mancando all'appello? Ce lo dice come ultima cosa dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stiamo commentando il dato sul PIL rivisto a rialzo dall'Istat. Mi scrivono alcuni ascoltatori, ma non mi dica, lei non ci crede veramente a questi dati? No, guardi, l'importante, non ci posso credere che lei creda a tutte queste cavolate sui dati. Guardi che l'importante non è che ci creda io, ci deve credere l'Europa, perché questi dati sono ufficiali, vengono presi da Eurostat e servono poi a determinare il nostro rapporto deficit-PIL, per cui non è un dettaglio. Altri mi scrivono, ho parlato con decine di persone, non ce n'è una che dica che va meglio. Altri mi dicono, nel mio settore, marmo e marmo per costruzioni, vanno bene solo le fasce medio-alte, malissimo invece l'edilizia, è ancora ferma l'edilizia di fascia media e medio-bassa. Goldstein, un altro elemento che viene fatto emergere dagli ascoltatori, che comunque le ore di lavoro, ma questo l'abbiamo ricordato molte volte, sono aumentati gli occupati ma non in pari modo le ore di lavoro, e dall'altro il fatto, quello che mi chiedono, ma è vero che siamo gli ultimi? Sì, la nostra crescita è nella parte bassa, diciamo, della crescita europea, e forse anche questo è il problema, c'è una crescita diseguale per imprese, non tanto per settori ma per imprese, cioè se sei o no vocato all'export. E che cosa manca all'appello? Le ore di lavoro, cioè il numero totale delle ore di lavoro al di là degli occupati. Tu puoi essere occupato ma lavorare 5 ore invece che 8, e chiaramente hai uno stipendio conseguente. O la pressione salariale che continua a creare dei consumi insoddisfacenti. Prego. Ma indubbiamente non è che siamo improvvisamente arrivati a una situazione di equilibrio e di grande gioia per tutti, c'è una disoccupazione che è ancora alta, dei salari che non crescono, delle imprese che pagano sicuramente troppe imposte, uno Stato che comunque in questo momento ha a se stesso difficoltà a finanziarsi, e quindi la situazione è ovviamente ancora pericolosa, e le dichiarazioni di Bruxelles tendono a ricordarcelo anche con frequenza, magari ogni tanto anche esagerata. La questione è della diagnosi, cioè che problemi ci siano lo sappiamo tutti, e nessuno pensa che voglia svendere una ripresa che non c'è a livelli da miracolo economico. La questione fondamentale è capire quale diagnosi bisogna fare, e lì il problema si chiama produttività, è la produttività totale dei fattori e soprattutto quella del lavoro che continua a languire e quindi languire, e questo è il vero problema di quel nostro paese, è un problema che non si è creato con la crisi, che non si è creato con questo o quel governo, è un problema che viene da decenni di incuria delle politiche pubbliche. Sì, devo dire, non si è creato con la crisi, ma la crisi l'ha sicuramente acuito. Voglio dire, tempo fa abbiamo fatto l'esempio, se tu hai vissuto negli ultimi quasi 10 anni, perché insomma 2008 siamo a 9 anni di crisi, con una febbre che era salita diciamo a 39 ma poi è arrivata anche a 41 nel periodo 2010-2011 per quello che riguardava l'attacco al debiti sovrani, all'euro, ricordiamo tutti quel periodo. È chiaro che se la febbre da 41 scende a 39 o a 38, tu la febbre complessivamente la senti ancora. Da lì a dire però che la febbre non stia scendendo sarebbe un errore, lo dico a chi scrive, sarebbe negare la realtà statistica. Okay. Qualcuno mi dice, ma com'è possibile che allo stesso tempo avete detto nel GR che aumentino anche i bambini nella fascia di povertà? Parte il fatto che il dato è più vecchio, ma non è, le due cose purtroppo possono stare assieme, cioè la difficoltà nell'arrivare a fine mese che stiamo raccontando e l'ingresso, tra virgolette, nella fascia di povertà di decine di migliaia di italiani, ahimè, può stare anche assieme a un dato che vede una ripresa dell'attività produttiva industriale, manifatturiera, dei servizi, chiaramente non sufficiente a invertire, ma almeno a fermare l'emorragia e ripartire. Non so se mi sto... No, ma c'è stata un'inversione, perché comunque il numero delle famiglie che dichiarano di avere difficoltà ad arrivare a fine mese è diminuito, invece sta aumentando, anche se rimane insufficiente, l'aumento delle famiglie che dichiarano di riuscire a risparmiare. Quindi anche da quel punto di vista ognuno ha l'aneddoto personale, l'aneddoto dell'amico, l'aneddoto del distretto in cui le cose vanno male o non vanno così bene come sembrerebbero suggerire i dati complessivi. Ma poi ci sono dei dati, non soltanto quelli del contabilità nazionale, ma anche quelle delle indagini presso le famiglie, che sono fatte con metodologie scientifiche che sono state utilizzate per decenni, che dimostrano che la situazione sta migliorando, anche se questo non vuol dire ovviamente pensare di aver risolto tutti i problemi, ma sarebbe veramente ingeneroso nei confronti di chi comunque fa un grande sforzo a tutti i livelli per fare migliorare le cose e non riconoscerlo. Guardi, mi scrive adesso un imprenditore, perché allora, se devo citare tutti i piccoli casi, un imprenditore del settore impiantistica da Arezzo mi dice: sono un piccolo imprenditore nel settore impiantistica e automazione industriale, dopo anni magri, un fine anno così pieno di lavoro non l'avevo mai visto e siamo aperti dal 2000. Vedete che insomma, dipende, non, ti ripeto, non tanto quello che noi vediamo un settore, ma il tipo di trasformazione che hai fatto in questi anni. Fermo restando che quando un paese ha avuto meno 25%, continuiamo a ripetere, nella produzione industriale, vuol dire che è scomparso un capannone su quattro. Ed è chiaro che quella roba lì ha fatto male, ha ferito, e le ferite si sentono e fanno ancora male. Ma ripeto, continuare a dire no, va ancora tutto male, non ti racconta la realtà e come si sta sviluppando la realtà. Quanto mancano all'appello invece i consumi, Goldstein? I consumi rimangono la parte dolente, proprio perché non sono ripartiti ancora i salari e le remunerazioni di chi lavora, e il numero delle persone che lavorano rimane comunque ancora basso rispetto alla media europea, quindi i consumi hanno più difficoltà a riprendersi. Ma di nuovo, ahimè, gli indicatori basati sul numero di persone che uno vede al ristorante hanno perso di credibilità, ma è indubbio che anche quelli sono degli indicatori che stanno migliorando, e questo vale per i consumi, per esempio nel turismo. Abbiamo avuto un'estate non soltanto grazie ai turisti stranieri, ma anche grazie alla domanda dei turisti nazionali, che è stata estremamente positiva. Quindi ci sono molti segni che le cose stanno andando meglio. L'importante da un lato è riconoscerli e dall'altro non sedersi sugli allori. Sì, ed è chiaro che all'interno della mancata ripartenza dei consumi, qualcun altro mi scrive, altri stanno continuando a scrivermi, perfetto, è chiaro che qualcuno mi scrive: ma perché quando perdiamo perdiamo più degli altri e quando cresciamo cresciamo meno degli altri? Questo è un tema e si ricollega alla produttività, però adesso non ce la faccio fare altri minuti sul PIL. Ringrazio intanto gli ascoltatori, qualcuno mi scrive del settore imballaggi in forte crescita, imballaggi vetro in forte crescita, installatori elettrici civili, insomma, ho capito, qualcuno mi dice trovate solo le cose che fanno comodo voi, qualcun altro mi dice la smetta di citare messaggi, vogliamo più dati economici come una volta, ho capito. Allora facciamo così, non soddisfo nessuno, ringrazio Goldstein e vado sul traffico. Focus Economia. Soy el fuego que... ...18-17%. Allora, Marco Bellinazzo, giusto per non farci mancare nulla oggi, buonasera. Buonasera Sebastiano. Al di là delle polemiche, insomma, io ho già detto che se vogliamo avere un approccio manageriale alla gestione dei soldi pubblici, perché la FIGC ha anche soldi pubblici, o la facciamo entrare in classifica venerdì o si dimettono tutti, perché insomma, quando non ottieni il risultato minimo, non ho capito, sarà colpa del campo da calcio, colpa dell'arbitro, colpa del vento, con l'invasione di cavallette, ce l'abbiamo Belusci, per favore. Però insomma alla fine ti devi dimettere. Quanto ci perdiamo, come, perché ricordiamo anche che il calcio permette incassi che poi servono al CONI, perché ci sono altri 5 sport almeno che sono in profondo rosso, ma insomma quanto ci perdiamo come Italia, al di là del brand Italia, perché poi le aziende italiane che volevano investire sulla nazionale per farsi conoscere in Russia, nel campionato, nello sport più visto al mondo, chiaro che non lo potranno più fare, ma noi quanto ci perdiamo direttamente? Guarda, io ho fatto una stima stando stretto, diciamo che è una partita che valeva un centinaio di milioni tra premi diretti della FIFA, perché questo sarà il mondiale più ricco, con 400 milioni di dollari assicurati ai partecipanti, ai due partecipanti, a me non ci siamo, per dire soltanto accedere a gironi valeva 12 milioni, chi vince la Coppa ne ha 40, l'Italia con un cammino un minimo onorevole, quindi ottavi o quarti, poteva portarsi a casa 20 milioni su un fatturato globale della federazione che è di 170 milioni, di cui una cinquantina dati dal CONI, quindi quelli sono soldi pubblici, il resto arrivano appunto dai premi delle grandi manifestazioni, che in questo caso non ci saranno, dai contratti di sponsorizzazione, oltre 40 milioni da una ventina di sponsor a vario livello, ora ci si dovrà sedere e andare a ricontrattare, e ovviamente Sebastiano, insomma, dopo due eliminazioni a gironi e questa disfatta sarà molto difficile ottenere ancora 40 milioni. Pensiamo poi a danni legati alla TV, la Rai paga 25 milioni all'anno alla nazionale per trasmettere le partite, che è una nazionale senza appeal, chiaramente in tempi di spending review metterà sicuramente a repentaglio anche questo incasso. Tra l'altro l'edizione 2018, per l'edizione 2018 Rai e Mediaset dovevano giocarsi questo derby per assicurarsi i diritti, e la FIFA perde quasi 100 milioni perché nella precedente edizione erano stati pagati da Sky e Rai 180 milioni, ma ora chiaramente senza l'Italia Rai e Mediaset per i diritti in chiaro pagheranno molto meno e la Rai dovrà rinunciare. Certo. La Rai ha un suo enorme bacino, perché sui 50 eventi in Italia televisivi più visti di ogni epoca l'85% sono partite di calcio, e capisci che gli introiti pubblicitari legati a eventi che ti fanno 18-20 milioni di spettatori, insomma, significa un danno enorme anche per la Rai e per le casse pubbliche, quindi non stiamo purtroppo parlando solo di calcio, anzi di calcio qui non stiamo proprio parlando. No, per nulla, tra l'altro chi invece segue il calcio sa benissimo che poi ai mondiali, quando la tua squadra partecipa, io da quando sono nato l'ho sempre vista partecipare, non ho 60 anni, e quindi tu segui anche con più attenzione le altre partite, perché o sono squadre nel tuo girone o te le potresti beccare agli ottavi e ai quarti, insomma c'è maggiore interesse, è innegabile. Poi c'è la fetta, lo zoccolo duro, che si guarderà tutti i mondiali, anche le partite, anche se l'Italia non c'è, però è innegabile che avrai un danno anche dal punto di vista dell'ascolto. Questo che ripercussioni potrebbe avere sulla FIGC e sul CONI? Beh, sai, non so se è stata una coincidenza o meno, ma lunedì e martedì prossimo Malagò, che appunto ha invitato da Tavecchio a dimettersi, ha organizzato a Roma gli Stati Generali dello Sport, che saranno secondo me molto di più a questo punto Stati Generali del Calcio. E peraltro il 28 novembre è prevista una seduta del CONI in cui si dovrà decidere come ripartire i 400 milioni di contributi pubblici che ogni anno il Ministero poi dà al CONI, e il CONI poi ripartisce alle varie federazioni. Ovviamente ora è tutta una caccia al calcio, scusami il gioco di parole, perché ovviamente tutte le federazioni ora vogliono più soldi e vogliono darne sempre meno al calcio. Quindi è evidente che si sta creando ora una sorta di redderazione, ma anche a livello federale, e di CONI e di gestione di queste risorse pubbliche, che riguarda poi a livello, diciamo, di indotto anche gli investimenti sul sociale, gli investimenti nello sport, nelle scuole. Insomma, noi ieri abbiamo visto una partita di calcio, ma dietro quella partita di calcio ci sono tantissimi interessi e ricadute poi anche sulle attività sportive dei bambini, dei nostri figli, perché dai soldi che incassa il calcio a catena poi determinano tutti i soldi che hanno le altre federazioni e quelle che le altre federazioni possono investire sullo sport di base. Insomma, è stata una vera mazzata e bisognerà capire come uscirne. Sì, qualcuno dice, ma lei non trova scandaloso il 1.600.000 euro per Ventura? Guardi, sì, è una cifra altissima, sono anche soldi nostri, quindi la trovo fin troppo alta. È ancora più scandaloso il risultato che ha ottenuto Ventura per quella cifra, se vogliamo dirla tutta. Qualcuno sugli sport minori, fatela finita, noi degli sport minori eravamo nelle palestre scalcinate anche quando l'Italia ha vinto il mondiale, non ho dubbi, il problema è che rischia adesso di essere anche peggio, perché su questo il calcio può piacere o può non piacere, ma è obiettivamente il gettito più grosso arriva da lì, e quindi se poi ti cala il gettito complessivo, una ricaduta rischi di averla anche sugli altri sport minori che non ce la fanno a finanziarsi da soli. Grazie Marco Belinazzo. Chiudiamo in bellezza, e cioè chiudiamo, prima andiamo sul traffico e poi chiudiamo sulle banche. Niente, andiamo sulle banche. Il traffico l'ho già fatto, infatti non capivo in regia che cosa mi stesse dicendo. Chiudiamo sulle banche, così da dove siamo partiti. Ritorniamo a Monte dei Paschi, oggi in audizione in commissione bicamerale, i magistrati e poi la vicenda anche della Cassa di Risparmio di Genova. Con una notizia ancora che riguarda la borsa, e mi riferisco a Astaldi. Allora, Astaldi, come anticipato, decide un aumento da capitale da 200 milioni, 200 milioni con altri 400 milioni in tutto. E Astaldi aveva avuto una giornata difficile in borsa. Devo dire che anche la Trevi Finanziaria ha fatto un tonfo, meno 22%. Male anche Carige, meno 10, Fiera di Milano meno 10, Saipem meno 7, di cui dicevamo. Bene invece a 2A, adesso devo riprendere tutti i dati, a 2A che guadagna il 5,6%, a Cotel Group il 10,90%, a Astaldi perde il 6,40%. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. Sono Marco Ferrando. Marco Ferrando, scusami. Del Sole 24 Ore, buonasera. Non è un problema. No, anche perché Bellinazzo l'ha appena avuto, e quindi andiamo avanti così. Marco, l'audizione oggi dei due procuratori, soprattutto i procuratori di Milano su Monte dei Paschi, hanno detto una cosa, due cose mi sono importanti. Cioè, ha detto: guardate che i derivati utilizzati, Alexandre e Santorini, non sono stati la causa della crisi di Monte dei Paschi, ma l'effetto, perché quando scoppia l'attacco al debito sovrano 2010-2011, il Monte dei Paschi aveva in pancia una quantità di obbligazioni dello Stato, cioè di BOT, BTP, doppia rispetto alla media delle altre banche. E poi hanno detto i due sostituti procuratori, Giordano Baggio e Stefano Civardi, mai emerse prove della stecca della tangente per Anton Venta. Se colleghi questo all'altra vicenda, che invece è la Cassa di Risparmio di Genova, prego. Ma diciamo che l'affinità tra la nazionale di ieri e la commissione di inchiesta di oggi non mancano, nel senso che sono due episodi sicuramente non edificanti. E oggi i PM di Milano, che hanno assunto l'indagine sulla banca dopo quelli dai colleghi di Siena, hanno raccontato diciamo per punti una inchiesta lunghissima che dura da anni, ed effettivamente i punti che dicevi tu sono importanti. Il primo, i derivati su cui Consob e Banca d'Italia, che nei prossimi giorni parleranno e quindi probabilmente riproporranno teatrino la settimana scorsa, diciamo i derivati su cui si sono esercitati le due authority, di fatto non erano altro che un tentativo di rimediare all'esborso eccessivo, straordinariamente eccessivo per Anton Veneto. Peraltro non dimentichiamo una delle ultime grandi operazioni di acquisizioni bancarie a quei prezzi, perché da allora in avanti le banche sarebbero state pagate molto di meno. Sì, strapagata, diciamo strapagata. Anton strapagata. E molti dicono che l'inizio di tutti i problemi del Monte dei Paschi, tu strapaghi Anton Veneta, nel frattempo il mercato inizia a andare giù, tutto il mercato, e tu ti ritrovi col cielo in mano. Tu strapaghi, cerchi di tirarti su comprando titoli di Stato che pagavano, Stato italiani che pagavano come oggi più della media, molto più della media. E l'indomani ti cade la tegola della crisi del debito sovrano, e quindi certo, paghi due volte, quindi rimani con le perdite di Anton Veneta e ti trovi con... Però mai emersa una prova sulla stecca, sulla tangente per Anton Veneta, perché molti, noi ci siamo tutti chiesti: ma perché l'hai pagata così tanto? Non è che dietro c'è la classica mazzetta o stecca. I PM hanno detto mai emerse, diciamo, degli elementi probatori. Questa non è una novità, sarebbe stato un colpo di scena se i PM avessero detto il contrario. I prezzi però parlano chiaro, nel senso che Monte Paschi comprò Anton Veneta per una cifra decisamente superiore a quella pagata poco prima dal Santander. Quindi stecca non stecca, sicuramente fu un'operazione inusuale, e dietro le operazioni inusuali o ci sono dei festi o ci sono dei furbi. O ci sono dei furbi. La Cassa di Risparmio di Genova invece, tra l'altro devo dire che Brunetta, Renato Brunetta, uno dei membri, vicepresidente della commissione bicamerale sulle indagini bancarie, ha detto che a breve verranno auditi anche Ignazio Visco, quindi governatore della Banca d'Italia, e Giuseppe Vegas, presidente della Consob, prima di Natale. Veniamo alla Cassa di risparmio di Genova per chiudere in un minuto scarso. Qui mi sembra sia il tema dell'incertezza sull'aumento di capitale. Sì, è così. Più che sull'incertezza, sul pessimismo rispetto perlomeno ai valori a cui verrà fatto. Oggi e domani c'è il CDA in corso che deve proprio fissare il prezzo a cui la banca venderà 500 milioni di nuove azioni. Non dimentichiamo, 500 milioni di nuove azioni più del doppio della capitalizzazione attuale di borsa, quindi di fatto il mercato si allinea a quello che verosimilmente sarà un prezzo a forte sconto. Non dimentichiamo, Carige però è già a metà strada e non è un dettaglio, settimane scorse ha chiuso la conversione dei bond, un'operazione di scambio sui bond, quindi è in grado di farcela e non sarebbe appunto un dato irrilevante per un sistema di cui ancora non sappiamo con esattezza la solidità, perlomeno nel suo insieme. Staremo a vedere, perché come tu ricordavi avremo maggiori notizie tra oggi e domani. Grazie intanto anche a Marco Ferrando questa volta. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni vi auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.